La vicenda inizia a inizio febbraio, circa un mese fa, quando riceviamo tutte le famiglie della scuola dell'infanzia Grosso ricevono un'email dalla pedagogista nella quale viene comunicata un'iniziativa prevista per il 20 marzo durante la quale il parroco dell'Arcoveggio, Don Milko Gelli, prevede una tappa della processione della Madonna di San Luca all'interno del giardino delle scuole dell'infanzia. In questo momento, apprendiamo sempre da mail della pedagogista, è previsto un incontro con i bambini della scuola dell'infanzia, bambini fra i 3 e i 5 anni, ricordo, durante il quale il parroco avrebbe spiegato il significato dell'icona della Madonna di San Luca e effettuato un momento di preghiera con quei bambini cui i genitori ne avrebbero dato il consenso. Questo è quanto accaduto in un primo momento. Voi avete chiesto spiegazioni anche al comune e, come dire, c'è stata anche una sorta di mediazione dell'assessore Ara. Sì. Sì, esattamente. Noi abbiamo immediatamente chiesto informazioni in merito innanzitutto alla nostra scuola e a chi all'interno della nostra scuola ricopre ruoli di istituzionali e di rappresentanza, affiancando questa domanda anche al nostro assessore all'educazione Daniele Ara, il quale ha cercato una mediazione con il parroco. Frutto di questa mediazione è stato abbastanza grottesco, il risultato è che questa Madonna sosterrà qualche metro più in là all'esterno del giardino davanti al cancello con i bimbi però che dovranno assistere rimanendoci all'interno. Quello che noi chiedevamo ovviamente non era questo, ma era di escludere il nostro istituto da un momento di culto. La nostra scuola è come una scuola comunale, è pubblica, è laica e quello che abbiamo chiesto come comitato genitori ricordo è composto da tutti i rappresentanti di tutte le sezioni della scuola, quindi all'unanimità abbiamo chiesto di spostare questo momento in un altro luogo, in un luogo più idoneo, e di farlo in orario extrascolare. In questo modo lasciando quindi la libertà a chi ne avesse ritenuto opportuno di potervi partecipare senza non poter andare a scuola quel giorno. Voi anche nel comunicato vi appellate alla laicità della scuola. Assolutamente, la nostra scuola è una scuola pubblica, una scuola comunale ed è una scuola assolutamente laica. Vi siete fatti un'idea del perché dell'insistenza, anche se non farla nel giardino, comunque farla lì? A noi sembra abbastanza chiaro l'obiettivo di strumentalizzazione della nostra scuola da parte di questo parroco, in quartiere anche abbastanza conosciuto come un parroco, diciamo, poco accogliente e poco inclusivo delle differenze e delle diversità. Evidentemente la presenza della Madonna di San Luca è per lui un momento da cogliere al volo per poter creare assolutamente polemica, perché evidentemente era questo il suo obiettivo. Di certo non ha pensato alla tutela della nostra comunità scolastica, alla tutela delle relazioni tra le famiglie che la attraversano e dei bambini che la vivono tutti i giorni. Voi lamentate che su un quotidiano locale, come dire, la scuola è stata dipinta in toni negativi, mentre voi avevate proprio scelto anche di non finire sui giornali per tutelare la comunità scolastica. Assolutamente, quello che a noi importa, ma noi, come a chiunque la scuola la vive e la riempie e la attraversa tutti i giorni, sappiamo benissimo che l'ultima cosa che può fare bene, l'ultima cosa che può costruire legami positivi all'interno di una scuola è finire sulla stampa locale. Questo parroco invece non si è fatto nessuno scrupolo a portare la nostra scuola, una scuola con la quale lui non ha nulla a che fare, non si è mai visto, sulla stampa locale con toni polemici. Peraltro io vorrei sottolineare che non siamo alcuni genitori, ma ripeto, il comitato è composto da tutti i rappresentanti di tutte le sezioni della scuola. Stiamo parlando di un 90% dei genitori della scuola che si sta domandando, comprese famiglie che fanno religione, attenzione, no? Cioè il 90% delle famiglie non concorda con le modalità e con le finalità pedagogiche di questa iniziativa. L'iniziativa rimane confermata però? Noi al momento non abbiamo aggiornamenti di cambiamento di programma e aspettiamo informazioni sia dai dirigenti della scuola che anche dal nostro assessore.